America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, lo scampanellio di Wall Street per una volta non ve lo faccio sentire per un andamento dell'indice, un indice che peraltro ha chiuso al ribasso di una trentina di punti, ma perché un titolo, diciamo pure italiano, Fiat Chrysler Automobile FCA, è andato molto bene, pensate, ha chiuso a più 11,63%. Ecco, la chiusura del giorno prima era stata quota 9,72, per intenderci, la chiusura di martedì a New York era stata 9,72. Ieri a 10,85 più 11,63% per un titolo industriale, che ci sia un balzo di questo genere, devo dire, è una cosa non da poco. Cosa significa? Beh, che c'è una forte sensibilità finanziaria nei confronti del titolo FCA. Perché? Beh, perché devo dire che nessuno si aspettava che ci potesse essere questo scorporo della Ferrari. Io mi ricordo quando ne parlavamo anche a Detroit, Marchionne aveva escluso che ci potessero essere degli aumenti di capitale, aveva escluso che ci potesse essere una quotazione separata di Ferrari e così via, così via. E invece la sorpresa, perché è una sorpresa positiva, buona, interessante? Perché la Fiat in questo modo recupera del capitale in più di cui avrà bisogno per procedere con i suoi progetti, e grazie appunto allo spin-off della Ferrari. Non entro qui nel dettaglio dell'operazione tecnica, la conoscerete, la trovate sui giornali, ma voglio darvi un po' l'umore che si respira a Wall Street e soprattutto, come dire, la giustificazione di questa operazione di collocamento al New York Stock Exchange, che era stata fatta e voluta da Marchionne, dai vertici Fiat, da John Elkann, proprio per poter avere accesso a un mercato molto più reattivo, molto più vasto, molto più pronto a intervenire nel momento in cui ci fossero state delle novità interessanti. Bene, questo è il polso di Wall Street su una notizia importante per l'Italia. Vedremo poi come, ovviamente dal punto di vista industriale, la Fiat Chrysler Automobile utilizzerà questi fondi, tutto di là da venire. Ma pensate che proprio per questo attivismo, anche molto finanziario, oltre che industriale, di Sergio Marchionne, gli analisti ritengono che il titolo Fiat, gli analisti americani sto dicendo, possa addirittura raggiungere in tempi non necessariamente lontani quota $19. Beh, stiamo parlando di aumenti, direi, molto importanti. Regarding interest rates, the committee reaffirmed its forward guidance that it likely will be appropriate to maintain the current target range for the federal funds rate for a considerable time after the asset purchase program ends. Janet Yellen ha fatto storia ieri, ha chiuso con il quantitative easing, quella manovra di intervento sui mercati obbligazionari, sia per titoli rappresentativi di mutui che per titoli del tesoro americano, che era stata intrapresa per aiutare l'economia, per far crescere il lavoro, operazione che, secondo me, è riuscita. Altri troveranno mille scuse per dubitare dell'efficacia di questa manovra, ma vi ripeto, secondo me è riuscita. Un dato: il tasso di disoccupazione nel 2012, quando si è partiti, era l'8%, adesso è sceso al 5,9%. Complessivamente, da quando l'economia ha cominciato a riprendersi dalla recessione negli ultimi 4-5 anni, 10 milioni di nuovi posti di lavoro. Qual è il messaggio invece importante della Fed? E sul fronte dei tassi di interesse, cosa dice la Fed? Li terremo stabili, cioè fra lo 0 e lo 0,25%, per un periodo di tempo piuttosto lungo. Questo cosa significa? Che resteranno su questi livelli forse fino come minimo ad aprile e direi probabilmente fino a giugno. È una notizia rassicurante, però la Fed ha fatto un passo in avanti, ha segnalato che sul mercato del lavoro la sottoutilizzazione delle risorse sta leggermente diminuendo, mentre prima, fino all'ultimo comunicato, diceva c'era una forte sottoutilizzazione delle risorse del lavoro. Ecco, può sembrare solo una variazione semantica, una sfumatura, non lo è. La Fed comincia già da ora a preparare il terreno per quello che succederà fra 6 mesi, fra 8 mesi, di modo che il mercato possa contare, di modo che non ci sia uno shock, di modo che non ci sia una sorpresa. Infine, elezioni americane. Well, look, here's the bottom line. We've got a tough map. A lot of the states that are contested this time are states that I didn't win. Barack Obama è in difficoltà. Vi faccio un accenno su queste elezioni americane. Cominciamo a scaldare, come si dice, i motori, perché le elezioni saranno martedì. I risultati li conosceremo nella notte, li conosceremo poi mercoledì. Ma che cosa succede? Beh, succede che Barack Obama è in difficoltà, lo sapete, ve l'ho detto più volte in questa trasmissione, e l'esito più probabile di queste elezioni è che i democratici perdano la maggioranza al Senato. Oggi hanno 55 seggi, i repubblicani ne hanno 45. Ci sono però 10 seggi che sono ballerini, e di questi 10 seggi la maggioranza sono democratici. Quindi i repubblicani, che devono vincere soltanto 6 seggi per poter guadagnare la maggioranza, si trovano oggi in una posizione di vantaggio, e questo lo riconoscono tutti. Quindi è possibile che a queste elezioni di midterm Barack Obama debba subire questa sconfitta, e cioè di perdere il Senato oltre che la Camera, e a quel punto i due dovranno governare insieme, perché maggioranza alla Camera e al Senato, Obama dovrà prenderne atto e dovrà negoziare. E devo dirvi che non sempre le cose si mettono male quando c'è questa situazione, perché alla fine i due negoziano, ciascuno deve trovare un compromesso, e forse la strada del compromesso è quella che dominerà gli ultimi 2 anni di questa amministrazione Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Taylor Swift, grande cantante, deliziosa, a me piace molto, ma è incappata in una polemica, perché ha voluto, come dire, e darsi un po' troppo da fare su New York. Il suo nuovo album 1989 sarà distribuito la settimana prossima. Il singolo si chiama Welcome to New York. Che è successo? Lei è stata anche nominata ambasciatore per il turismo di New York. Piccolo problema: Taylor Swift con New York non ha niente a che fare. Non solo, questa canzone sembra un po', come dire, una pubblicità per New York, quindi i newyorkesi sono un po' irritati, ma insomma, ma questa è arte o è uno spot pubblicitario? Non solo, il testo parla del multiculturalismo, del latte, della bellezza di questa città, dell'energia e così via, così via. Tutta una serie di luoghi comuni che poco hanno a che fare con l'umore, con la forza, con l'atmosfera di questa straordinaria città. E dunque Taylor Swift ha pagato, però la canzone è comunque molto bella, e dunque ve la facciamo sentire lo stesso, così giudicherete da voi se è il caso di separare tra la politica, l'immagine, la costruzione di un certo messaggio e una bella canzone. Taylor Swift, Welcome to New York.